Lei ha accennato, nel quadro di una perdita di significato del cristianesimo in una società secolarizzata, a un nuovo rischio che si profila per la fede, un rischio fino ad ora assolutamente sottovalutato, cioè alla possibilità dell'egemonia di un punto di vista sottilmente ostile al cristianesimo. Questo diktat accetterebbe soltanto un cristianesimo integrato e uniformato ai modelli dominanti, un cristianesimo per così dire edulcorato, privo delle asprezze dettate dalla fedeltà a Cristo, mentre sostenitori della fede autentica sarebbero additati come hardliner o fondamentalisti. Io credo che questo sia un pericolo reale. Certo, i cristiani non sarebbero apertamente perseguitati. Sarebbe una cosa troppo di altri tempi, poco elegante. No, bisogna essere tolleranti, aperti a tutto, ma poi ci sono cose che vanno decisamente escluse, etichettate come fondamentaliste, anche laddove si può invece trattare di vera fede. Penso che si possa creare una situazione in cui occorrerà opporre resistenza a una dittatura di tolleranza apparente che vuole mettere fuori gioco lo scandalo della fede liquidandolo come intollerante. Qui verrebbe allora davvero alla ribalta l'intolleranza dei tolleranti. La fede non cerca il conflitto, cerca uno spazio di libertà e di tolleranza reciproca, ma non può nemmeno accettare formulazioni che si propongano di standardizzarla e di renderla compatibile con la modernità. La fede ha un obbligo di fedeltà assoluta nei confronti del Signore, deve essere pronta a fare i conti anche con situazioni conflittuali di tipo nuovo.